Dopo un anno in cui i lavoratori dell'azienda di trasporto fiorentina ATAF stanno lottando contro la vendita e contro la privatizzazione da parte di Renzi, della giunta comunale di Firenze, dell'azienda di trasporto. Siamo arrivati tramite anche 8 scioperi con adesioni diciamo quasi bulgare, se così si possono dire, intorno al 98-99%. Su questo abbiamo cominciato a mobilitare come lavoratori anche i vari cittadini ed è nato un comitato cittadino a cui fanno parte oltre di noi lavoratori ma anche tutte le varie realtà sociali, altre organizzazioni sindacali e tutti i vari comitati cittadini, il comitato dell'acqua, tutto quello che lottano diciamo e sono in prima linea contro quello che è lo smaltimento e la vendita dei beni comuni, a cominciare dal trasporto, a cominciare dall'acqua, a cominciare dall'alta velocità, a cominciare dalla scuola, insomma da tutto. Quindi abbiamo raggruppato sotto questa sigla tutte le varie realtà, ecco, questa è diciamo come è nata. Quello che sta succedendo è chiaro, in un momento in cui, nella crisi in cui siamo, il trasporto pubblico, il trasporto e la mobilità diventa un bisogno più che sociale e quindi ci dovrebbero essere delle politiche a favore del trasporto pubblico, ecco che chi governa questa città, Renzi, che è bravo a apparire nelle varie televisioni, a farsi bello nei vari programmi televisivi, ma non è bravo a fare quella politica, per continuare sulla politica diversa non riesce a fare questo e decide che essendo meno soldi di dare in mano a un privato e far fare scelte impopolari come licenziamenti, come tagli al personale per gli esuberi o come tagli alle linee a un privato e salvando la faccia. Questo in parole povere sempre è quello veramente che sta succedendo sia a Firenze ma anche in tante altre città e in tutto quello che sono i beni comuni, ecco. È una situazione diciamo, che ci ricorda molto da vicino quello della nostra di città, anche a Firenze, quindi il processo... Scusate, però rispetto proprio alla vostra città, infatti è uguale dentro, ma la cosa buffa, diciamo così buffa, però è tragica, è che a voi a Roma avete una giunta di centrodestra, noi a Firenze abbiamo una giunta di centrosinistra. Le politiche che vengono fatte sia dalla giunta di centro-sinistra che dalla giunta di centro-destra sono perfettamente uguali, quindi è chiaro a questo punto centro-sinistra e centro-destra chi è dietro quando sei dietro mezzo il capitale, chi ci rimetterà sarà sempre i lavoratori, i cittadini eccetera, questo è chiaro, cioè, è lampante, la situazione è lampante. Assolutamente. Senti, il processo di privatizzazione che cosa dovrebbe portare nel concreto? Quanti licenziamenti? Nel concreto cioè, l'iter è questo, ma l'iter è già stato avanzato, noi siamo già a un punto, come ho detto già un anno ci operiamo, poi lui sta continuando ad andare avanti tranquillamente la strada, entro metà giugno dovremmo sapere chi è l'acquirente e a quel punto una volta stabilito l'acquirente, si parla di grosse multinazionali come Trenitalia o i francesi della RATP che già in Toscana gestiscono parte del trasporto pubblico e a Firenze la linea 1 della tranvia. A quel punto lì, quando sapremo com'è la situazione, chi ha vinto, noi, i 1244 lavoratori, saranno trasferiti nella nuova società che si chiama ATAF Gestione, che è una società, un SRL con 10.000 euro di capitale, che è quella che è stata messa in vendita, perché non è stata venduta diciamo, l'azienda madre ATAF, che nel momento del passaggio non sarà più un'azienda di trasporti ma diventerà un'azienda immobiliare perché resteranno solo esclusivamente gli immobili in questa azienda. Tutti i lavoratori saranno trasferiti con una cessione di ramo d'azienda, 1244 lavoratori saranno trasferiti in questa società a responsabilità limitata che è quella che sarà acquistata dal proprietario e che è quella che andrà a svolgere poi il trasporto pubblico. È logico che in questo passaggio, dal periodo di questo passaggio già c'è, ma nel momento in cui si arriva nella società privata è chiaro che questi cominceranno a fare un piano di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione che parla già già a suo tempo Renzi quando voleva trovare un potere d'accordo si parlava già di 95-100 persone in esubero da poter mettere in cassa integrazione e tra virgolette nel trasporto pubblico non esiste la cassa integrazione quindi vuol dire licenziare e poi andare a rivedere quello che era tutta la contrattazione di secondo livello e nello stesso tempo trovare quelle che sono risorse, magari andando a tagliare delle linee improduttive rispetto delle altre. Questo un po' era tutto il piano di ristrutturazione che, quando ci è stato presentato, gli è stato detto ed era inaccettabile in un momento una cosa del genere, e lui, per poterlo fare, ha deciso di farlo fare a un privato. Ecco, questo è quello che sta succedendo. Senti Alessandro, ci hai detto dell'adesione praticamente totale agli scioperi. Per quanto riguarda invece gli utenti, insomma la popolazione di Firenze, dal vostro punto di vista, come stanno reagendo a questa iniziativa del sindaco e alle vostre mobilitazioni? Ma senti, noi abbiamo fatto per conto l'altra sera, per dirti l'ultima, un sotto l'azienda nel mezzo strada, una cena in cui hanno partecipato quasi 200 persone, sono 200 cittadini rispetto alle cose. Quindi la campagna è stata fatta, abbiamo fatto una raccolta di firme sempre come comitato e in poco tempo siamo riusciti a raccogliere 7.000 firme. Considera, è stata fatta una campagna incriminatorio e discriminante verso i lavoratori, con Renzi è uscito su tutti i giornali, ha il monopolio purtroppo di tutta la stampa locale, sia televisiva che di carta stampata, in cui uscendo fuori, facendo capire, andando accusandoci, dicendo che se lui vendeva l'azienda di trasporto perché i lavoratori di ATAF, l'azienda di trasporto, non volevano lavorare 10 minuti in più in un momento di crisi. Una bufala è stata smentita e che non è riuscita a passare nella maniera più assoluta. Cioè, durante le 8 giornate di sciopero sono state in questo anno, non c'è mai stato da parte dell'utenza un dire: oh madonna, ma stanno scioperando ancora. È stato capito il segnale che non era uno sciopero per un'avvertenza di lobby, diciamo, di lavoratori, ma un'avvertenza per il trasporto pubblico, e lo stanno vedendo anche loro stessi. Insomma, i tagli sono evidenti, si stanno accorgendo come chi gestisce il trasporto va a fare soltanto cassa, ecco. Eh sì, anche perché poi da un lato, diciamo, viene tagliata la forza lavoro, dall'altro vengono tagliate le cosiddette linee improduttive, che poi tanto improduttive non sono, perché comunque no, servono. Sono quelle principali, che sono quelle sociali, perché in qualsiasi paesino, in qualsiasi linea che mi porta soltanto la mattina alle 5 con le 4-5 persone, purtroppo sono quelle 4-5 persone che hanno bisogno sociale di quell'autobus, perché altrimenti, se no, veramente, come strutturato il trasporto in Italia, purtroppo le cose, cioè la gente cerca, come si deve arrangiarsi, o con motorino, bicicletta o macchina. Questa è la realtà dei fatti. Però in una situazione in cui si sta andando sempre più in crisi, lo sto vedendo, e mi sembra che ho parlato anche di compagni di Roma e di altre città, il traffico con la benzina a 2 euro un po' sta calando. Sì. E quindi ora come ora avremmo veramente bisogno il trasporto pubblico di un rilancio delle strutture, di un rilancio per essere veramente competitivo e non per fare il lavoro sociale che dovrebbe fare. Invece si continua a spendere in grandi opere assurde, eccetera, eccetera, in guerre, eccetera. Questa è la realtà. Eh sì, poi insomma, voi di grandi opere, insomma, ne sanno un po' tutti, voi a Firenze in particolare, perché fra tramvie fantascientifiche, treni ad alta velocità che passano sotto il centro. Sì, il Comitato Notturno e Tardi di Firenze logicamente fa parte del Comitato per la Privatizzazione, sarà domani in piazza insieme a noi, come quelli degli inceneritori. Cioè, dicevo, tutte queste realtà di queste si sta accorgendo, ma per lo spreco veramente, ma è quello che ti dicevo all'inizio, nel momento in cui il trasporto pubblico deve essere un servizio sociale, l'importanza, la politica dovrebbe a questo punto, la vera politica dovrebbe cambiare l'indirizzo. No, le grandi opere, i soldi si buttano su un'altra cosa, invece non si fa, e si preferisce fare tagli e farlo fare a chi magari privatamente lo può fare e non c'ha la ripercussione, ecco, qua a livello di immagine.